Cruzzi non sanno volare. Non molto tempo fa gli struzzi avevano un re che si chiamava Lionello. Era lo struzzo più grande e più bello d'Africa. Dovunque andasse gli altri struzzi esclamavano: «Oh, ma guardate che gambe! Non sono le più belle di tutta l'Africa!» Lionello si guardava le grosse ginocchia protuberanti e le zampe incallite e annuiva. Di lì a poco Lionello diventò molto vanitoso e credette di essere così intelligente da potersi permettere tutto. Ma gli altri struzzi erano troppo stupidi per accorgersi che Lionello era uguale a loro. Poi un giorno Lionello annunciò: «Io posso volare!» Ci fu un gran tumulto. Nessuno struzzo era mai stato capace di volare. «Oh, facci vedere, oh grande re!» Il cuore di Lionello sprofondò. Far vedere. Non si immaginava che glielo avrebbero chiesto. E cosa poteva fare? «Oggi non posso fare la dimostrazione perché il vento è contrario.» «Ah!» I volatili annuirono con saggezza. «Non importa, torneremo domani.» Lionello pensò di avere trovato una buona scusa e l'indomani, quando gli struzzi si presentarono per vederlo volare, la ripeté. «Peccato! Il vento è contrario anche oggi!» «Oh!» sospirarono delusi gli struzzi e il giorno dopo si presentarono di nuovo. «Per piacere, vola per noi, o re!» Lionello guardò il cielo e scosse lentamente la piccola testa. «Il vento soffia sempre in senso contrario.» Si udì una vocina. «Oh, re, se il vento soffia nel verso contrario, perché non ti giri e voli nell'altra direzione?» Metà degli struzzi furono così colpiti da questa straordinaria trovata che svennero. Gli altri non la smettevano più di applaudire con le corte ali. Il povero Lionello non sapeva che pesci pigliare. Doveva per forza trovare un'altra scusa. «Ci sono troppe nuvole oggi.» Gli struzzi esitarono, osservando con tristezza il cielo. «Ma c'è una sola nuvola.» «Una è più che sufficiente.» «Ma è una nuvoletta.» fece un uccello speranzoso. «Da qui sembra piccola, ma da vicino è enorme, credetemi.» «Ma non c'è bisogno che tu voli così vicino», obiettò un altro. «Intendiamoci subito, io sono il re e non venite a dire a me cosa devo fare. Non posso volare, anche se c'è una sola nuvola.» «Oh, re, per favore, non essere arrabbiato con noi. Noi desideriamo solo vederti volare. Nessuno struzzo ci è mai riuscito.» gemettero gli struzzi indietreggiando. Lionello capì che prima o poi avrebbe dovuto volare, altrimenti quelli avrebbero scelto un altro re. «Volerò per voi venerdì mattina», annunciò solennemente. «Evviva!» Restavano 3 giorni per imparare a volare. Quando nessuno lo osservava, correva su e giù per la sabbia, sbattendo le alucce e saltando per aria. Le piume ciondolavano come bucato bagnato. Salì su una collinetta, prese la rincorsa e coraggiosamente saltò verso il cielo. «Posso volare!» gridò. Patapum! No, non poteva volare. Tutto ammaccato, Lionello provava una gran pietà per se stesso. Quando un tratto ebbe un lampo di genio, corse fino al lago e scambiò qualche parola con i fenicotteri. «Vi prego, aiutatemi. Dovete solo legarmi una corda attorno alle caviglie, poi prendere il volo trainandomi dietro di voi. Sembrerà che voli anch'io.» I fenicotteri acconsentirono e lo struzzo ancora una volta si sentì molto compiaciuto per la sua astuzia. «Non per niente sono il re», pensò Lionello. Venerdì mattina tutti gli struzzi si radunarono per vedere volare il loro re. Lionello si mise fra le canne sulla riva del fiume per fare un discorso prima della sua esibizione. Mentre parlava, un paio di fenicotteri sgattaiolarono fra le canne e gli legarono le caviglie con una corda. «Oggi vedrete una cosa meravigliosa. Volerò come a memoria di struzzo nessuno ha mai fatto. Sono così coraggioso, così intelligente che... Improvvisamente la corda si tese e Lionello fu scaraventato per terra, batté il mento sulla sabbia e scomparve fra le canne. Poi infine apparve per aria penzolante all'estremità della corda. Ondeggiava qua e là, rasente il lago. Poi i fenicotteri si accorsero che era troppo pesante e lo lasciarono cadere. Il re degli struzzi sprofondò nel lago. Tossì, sputacchiò e si trascinò alla riva con l'aria di essere stato dentro una lavatrice per una settimana. Appena gli struzzi poterono smettere di ridere, decisero di non avere più nessun re. Quel Lionello non era proprio niente di speciale. È proprio stupido come noi. Saremo o tutti re o tutti struzzi e basta. Decisero di rimanere semplicemente degli struzzi. Infatti pensarono che diventando tutti re sarebbero stati costretti a volare, sembrando così ancora più stupidi di quanto non fossero. Thank you.